E con grande piacere proseguiamo il nostro programma dedicandoci alle meraviglie della natura, non solo quelle del nostro grandissimo bel paese l'Italia, non solo quelle del nostro grandissimo bel continente l'Europa, ma anche quelle che sono sul continente americano. Abbiamo mandato Stefano Frosi alle cascate del Niagara, uno spettacolo imponente da raccontare in diretta ai nostri radioascoltatori affinché tutti possiamo emozionarci e anche evadere un po' dalla nostra quotidianità. Molti di voi ci ascoltano dalla macchina, siete magari nel traffico, che tornate a casa dal lavoro, e dunque vogliamo portarvi una ventata di freschezza, in questo caso è proprio il caso di dirlo, farvi assaporare anche qualche gocciolina, qualche spruzzetto delle cascate, grazie a Stefano Frosi. Pronto? Ciao Stefano. Sente molto tranquillo, non si sente il rumore delle cascate, Stefano? Niente, proprio. Le cascate? Come le cascate? Non sei sotto le cascate del Niagara? No. Dove stai, Stefano? Io sto a casa. Stai a casa? Niente, oggi a non a casa mia, sto a quale cascata? Oh? Ma come? Scusa, Stefano, che giorno è oggi? Giovedì. E quindi? Dove dovevi stare? Dove dovevo stare? Sotto le cascate del Niagara. Nel Niagara. Non ti ricordi, Stefano? Scusa, c'è un contratto che abbiamo firmato. I servizi. Scusa, ma a me mi avete mandato una mail. Esatto. E c'era scritto. C'era scritto. Il collegamento sarà alle cascate del Niagara. Esatto. E tu invece che hai letto, scusa? Io non me. No, perché. Ma io mo sto a fa mezzo trasloco qua a casa. Ci dispiace, avevamo preso pure il cane. T'ho detto, avevo preso il cane. Questo comincia, siccome è piccoletto, comincia a mozzicarmi. Se sarà mangiata la mail. Stefano, lo so, io l'unica cosa che. La mail puoi anche non stamparla, la puoi leggere. Cioè, la mail si legge sul computer, poi la puoi stampare o no, però se ma io stampo, poi butto tu, poi c'ho avuto tutta la. Vabbè, sei incasinato col trasloco, va bene, però insomma, io sta di fatto che adesso non. Che collegamento buttato. Io abito a Testaccio, posso parlare. Che ne so? Di che? Non è di parlare di testaccio. Testaccio, c'è sta il gasometro. C'è? Il gasometro. Ma sì, vabbè, che è il gasometro? Che è? È un bel collegamento al gasometro. Stefano, non ci frega niente il collegamento al gasometro. Noi volevamo parlare delle cascate del Niagara. Vabbè, che ti devo dire? Ti salutiamo a questo punto. C'è il mattatoio. Ma che me frega il mattatoio? Ciao Stefano, ciao.